Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, siamo ancora questa sera nella scia degli eventi dello scandalo della National Security Agency e della infiltrazione nella vita di tanti cittadini americani e non solo americani. Stiamo parlando con Igor Falcomatà, che è tornato a trovarci questa sera. Buonasera Falcomatà. Buonasera a voi. Con Falcomatà, poi vi spiego anche chi è, stiamo parlando diciamo dei rischi, delle nuove sensibilità che stiamo creando rispetto al tema della Smart City e in particolare a due parole che sono due ingredienti fondamentali di questo grande progetto che chiamiamo Smart City: Open Data e Internet of Things. Ieri sera abbiamo parlato dei rischi, per esempio per la privacy, connessi all'open data. Questa sera ci concentriamo su un'altra realtà, l'Internet of Things, cioè il fatto che molti oggetti, e non più solo persone, oggetti che possono essere sensori del traffico, telecamere, sensori ambientali, ma sono anche molti apparati industriali, cioè dei controllori, delle schede, chiamiamole così, elettroniche, che controllano degli apparati industriali. Ebbene, moltissimi di questi oggetti oggi si affacciano su internet, sono raggiungibili da remoto, questo è molto utile per poterli appunto utilizzare al meglio, ma anche qui abbiamo dei rischi e delle sensibilità nuove e veramente pericolose, come scopriremo oggi con Igor Falcomatà, che è un esperto di sicurezza informatica, un hacker per intendersi di quelli buoni. Allora Falcomatà, per esempio alcune tecnologie si stanno diffondendo come lo Zigbee o come gli RFID, che sono quelli che consentono di entrare in azienda oppure di passare al tornello della metropolitana semplicemente avvicinando il proprio abbonamento al lettore. Qui già ci sono dei piccoli rischi. Assolutamente, questo tipo di tecnologie, come storicamente accade nella sicurezza informatica, spesso nascono in ambito, diciamo, di studio, e cosa succede? Che nessuno purtroppo valuta le problematiche di sicurezza informatica. In particolar modo per l'RFID e per Zigbee il primo problema è il problema della confidenzialità, quindi della crittografia dei dati, cioè questi device parlano tra di loro senza proteggere i dati. Cioè io avvicino la mia scheda, addirittura la tessera sanitaria per esempio, piuttosto che l'abbonamento del treno, a uno di questi lettori e loro si fidano, parlano tra loro fidandosi sostanzialmente, no? Non c'è una verifica incrociata dell'identità. Esattamente, io posso sia far finta di essere io il lettore, quindi acquisire i dati e fare un pagamento a nome mio, sia simulare invece di essere un client legittimo e quindi anche qui averne un piccolo vantaggio economico, viaggiare a sbaffo sul treno o rubare i dati dell'abbonamento di qualcun altro. Ecco, e qui abbiamo delle prime sensibilità. Saliamo invece di scala. Entriamo dentro un campo che potrebbe essere chiamato quello del cyberterrorismo. Io lo metterei così, diciamo, se il terrorista diventa smart anche lui, che cosa può fare con tutti questi sensori e questi attuatori raggiungibili via internet? Il problema potenzialmente è esplosivo, nel senso che già le statistiche che sono state fatte ci dimostrano che ci sono moltissime apparecchiature industriali che sono già adesso su internet e sono apparecchiature anche di alto livello, quindi pensiamo a sistemi di controllo di centrali elettriche o di centrali o di pompe dell'acqua, di dighe, di cose di questo genere. Sono state fatte delle analisi e cosa è successo? Dei ricercatori hanno cercato a caso su internet dei punti di ingresso, diciamo delle interfacce di controllo di queste apparecchiature, e già il fatto che ci siano non è un buon segno. Quindi cosa succede? Che io posso arrivare a parlare via software con, facciamo un esempio, una centrale di controllo di una turbina di una centrale elettrica. Di una turbina centrale elettrica. Non so se qualcuno degli ascoltatori probabilmente avrà visto Matrix Reloaded, ed ecco la scena in cui Trinity si tuffa con la moto in una centrale elettrica e poi si mette a spippolare sul computer. Ecco, questo potrebbe paradossalmente essere ancora più facile poterlo fare direttamente da internet. E poi una volta che io riesco a parlare con questa centrale, cosa succede? Allora, se la centrale è ben configurata, niente. Il problema è che questo tipo di apparecchiature molto spesso sono nate in reti protette, non sono state pensate per essere blindate, sì, verso un ecosistema così pericoloso come internet, e quindi si trovano un sacco di vulnerabilità che vanno dalla banale password di default, quindi una password che è stata impostata dal produttore e non è mai stata cambiata da nessuno, fino a errori specifici allora, di software che mi permettono di abusarne il funzionamento, anche se dovrebbe essere protetto. Allora, provo a fare una traduzione, diciamo, a raccontarla in un altro modo. Il protocollo Internet IP funziona in questo modo, no? Sono tutti affacciati sulla rete, uno suona il campanello, il dispositivo risponde: buongiorno, io sono Maurizio, tu chi sei? Se quell'altro si fa riconoscere, allora Maurizio apre la porta, ti fa entrare in casa e ti lascia fare tutto quello che vuoi praticamente in casa. Quindi, siccome molti di questi dispositivi hanno ancora delle vecchie password di fabbrica, che vuol dire che si entra con Pippo Pippo per intendersi, no? o qualcosa del genere, essendo raggiungibili via internet, uno potrebbe riuscire per esempio a bloccare contemporaneamente magari decine di turbine che producono energia elettrica, e a questo punto probabilmente scatenerebbe una reazione a catena che produce un blackout. Stiamo parlando di cose di questo genere, no? Questo è un esempio. Assolutamente, addirittura alcuni complottisti dicono che uno degli ultimi blackout molto grandi che c'è stato negli Stati Uniti è legato proprio a un attacco di cyberterrorismo, anche se poi non ci sono assolutamente prove di questo. Però diciamo che è uno scenario sicuramente plausibile e temo anche potenzialmente realizzabile, insomma, ecco. E quanti di questi dispositivi in rete erano risultati, diciamo così, fragili dal punto di vista di un attacco hacker? Beh, diciamo che su questa indagine non eccessivamente approfondita, solo con questa ne sono stati scoperti circa 140.000, ecco. Nel mondo, giusto? Nel mondo, sì, è un numero sicuramente molto elevato. Certo, ecco, spesso parliamo della possibilità che tutti i parcheggi di una città abbiano un loro sensore che dice se questi parcheggi sono liberi oppure sono occupati. Immaginate che cosa succede se si riesce a entrare nel sistema e dire che tutti sono liberi oppure che tutti sono occupati, che cosa può succedere al traffico, no? Assolutamente, o peggio ancora, mettiamo che ci sia la maniera di controllare direttamente, per esempio, i semafori, potrei far impazzire il traffico di una città. Grazie Igor Facomatà. Grazie a voi, buona serata. Grazie per essere rimasti con noi, appuntamento a lunedì.